Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi, seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento del GR di Radio 24 che racconta piccole e grandi storie della cronaca italiana. Sono reportage girati nei luoghi dai nostri inviati, dai corrispondenti sparsi per il territorio. Dunque una finestra sui problemi e le eccellenze delle città, la politica locale, i casi di cronaca nera giudiziaria, le persone con le loro passioni e le loro battaglie civili. Oggi con Paola Nania torniamo a Reggio Calabria. A pochi giorni dal gravissimo attentato che ha colpito il Tribunale, nelle ore in cui si discute ruolo e potenziamento delle strutture giudiziarie in prima linea nella lotta alle mafie, in particolare all'Ndrangheta. Mi ha sconcertato perché affinché si accorgessero di noi ci è voluta una bomba in procura, mi sembra che siamo arrivati proprio alla frutta. Una voce da Reggio Calabria, la voce di una ragazza che passeggia per il corso e si anima quando le chiediamo un giudizio sull'attentato del 3 gennaio scorso. Un ordigno che rompe l'Alba Regina, alto potenziale, nessun ferito ma un segnale netto. L'Ndrangheta colpisce la Procura Generale, non gradisce i sequestri milionari e gli sgomberi che indeboliscono prestigio, portafoglio, controllo del territorio. Non gradisce tantomeno le condanne pesantissime anche in appello. Penso che la popolazione non ci abbia fatto tanto caso, tanto qua siamo abituati alle bombe. Abituati alle bombe, dice quest'altro signore, ma l'esplosione del 3 gennaio potrebbe rappresentare una cesura. Lasciamo il corso e andiamo al CEDIR, il centro direzionale dove si trova la procura. Qui chiediamo al procuratore aggiunto Nicola Gratteri che idea si sia fatto, se e come Reggio Calabria sia cambiata dopo la bomba. Intanto è stato importante l'allargamento dell'organico, quantomeno sulla carta, perché più si è, più si distribuisce, si spalma la responsabilità o il peso o lo stress dei processi. Quindi diciamo la risposta almeno sulla carta data finora dallo Stato. Sì, diciamo che c'è stata, nel senso che nell'immediato si è disposto di allargare l'organico, di aggiungere altri due sostituti procuratori generali. La magistratura, secondo me, dopo questa bomba si è compattata ulteriormente. È molto più forte di prima perché è molto meglio organizzata, e dove ci sono, siamo passati da 8 magistrati a 12 magistrati, quindi si può lavorare contemporaneamente su più famiglie ndranghetiste, e quindi si può spalmare la responsabilità o il peso, lo stress su più persone. Secondo Gratteri, dunque, la procura ha paradossalmente beneficiato di questa bomba, più uomini e ulteriore compattezza, e la città, la gente che abbiamo sentito sul corso, c'è un risveglio della società civile, ancora Gratteri. Abbiamo visto anche dei timidi tentativi di manifestazione, di protesta da parte della collettività nei confronti di questo atto grave. Ecco, timidi, lei dice timidi. Eh sì, perché Reggio Calabria non è che un paese di 10.000 abitanti, noi abbiamo visto lì 2.000 persone. Troppo poche, però. Troppo poche, ma questo ha un significato, non è casuale. L'Ndrangheta è una minoranza, le città, i paesi della Calabria sono piene, strapiene di persone per bene. Il problema è che la gente è scettica, la gente non crede in noi, non crede nelle istituzioni in genere, perché il popolo calabrese è stato sempre usato, sfruttato, munto e poi mollato, abbandonato. Di questi cicli li abbiamo visti tanti, il popolo calabrese è stanco e disincantato, non crede. Per la sua lotta all'Ndrangheta Nicola Gratteri vive sotto scorta da 15 anni. Gli chiediamo se ha mai pensato di lasciare la Calabria. No, ci risponde, la terra in cui si nasce è sempre la più bella del mondo. Paola Nania, GR24, il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Italia in controluce. La seconda storia di oggi giunge da Tavazzano, profondo nord, provincia di Lodi. Lì vive e lavora un arlecchino che sbeffeggia la mafia. E per questo motivo gli hanno affidato una tutela, una scorta. Giulio Cavalli, 33 anni, attore e regista di teatro civile. Si muove con angeli custodi armati che lo seguono fin dentro ai camerini. È un arlecchino che si pone domande, che offre risposte, che ha imparato a leggere le carte dei tribunali e che segue le piste degli investigatori e che compie inchieste.